kalbim. Kanımda maniyet kökleri, burasın suğunla bensezen battı. Divası duyma çaş kurda bıktı. Stubarın unna da suferi. Saben çaga gistamol. Oço rimane bok fırınlı. Come guardi qualche già l'ingadonna delle lassate. Stavando in un benzà, capo pazziata vita mia, è troppa la verità, sapendo che mi può passare, son di camoda di gatti. Moga stasera da farmi, da vege chiagnere perché non parla e non può pagare, si stai chiagnendo per st'amore, come vorrei poter sonnare. Veramente mi può bene, pure se fosse verità, non me ne vorrete da già fa, amore mio da già lasciare. Amore mio da già scordare.